e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Solo un risparmiatore consapevole può cogliere le migliori opportunità di investimento. La cultura e l'educazione finanziaria sono quindi da considerare un obiettivo strategico per l'Italia e per chi offre servizi di investimento. Il risparmio rappresenta una risorsa cruciale per il bilancio delle famiglie e per il finanziamento delle imprese. E allora, buongiorno a tutti. Da Deborah Rosciani prende il via oggi l'edizione 2017 del Salone del Risparmio di Milano. La presenza del Ministro dell'Economia Padoan, che è l'ospite della plenaria di apertura, che è stata intitolata Inseguendo la crescita. Quello che avete sentito era un estratto di uno dei video che Assogestioni ha preparato proprio per così preparare anche la platea dei possibili partecipanti appunto a questo evento. Un video di cui naturalmente noi vi abbiamo trasmesso solo una parte audio. Si discuterà molto in questi giorni di come mettere il risparmio al servizio della crescita economica del Paese, obiettivo che oggi, con il lancio dei nuovi strumenti di investimento, i PIR, sembra più a portata di mano appunto del passato, quando, lo sapete bene, i risparmiatori italiani non guardavano molto oltre il mattone e il titolo di Stato. Oggi queste due classi di investimento non danno più alcuna garanzia e il risparmiatore prova a seguire altre strade, a volte purtroppo anche facendo degli errori. E comunque al centro del salone di quest'anno molti altri argomenti, a partire dal fattore geopolitico. Il recente attacco americano alla Siria costituisce un nuovo fattore di agitazione fra i mercati, infatti oggi sono tutti in calo, abbiamo un ribasso di Milano di mezzo punto percentuale. Abbiamo ancora i tassi di interesse vicini allo zero, anche se c'è un po' di fermento sul mercato obbligazionario per un tema che questa mattina è stato evidenziato: il rendimento del titolo di Stato francese decennale ha superato l'1%, altro segnale di nervosismo in vista delle imminenti elezioni politiche appunto transalpine. Poi l'avanzare di un sentiment populista, antiglobalizzazione, sono tutti argomenti che stanno mettendo a dura prova l'economia globale. E poi abbiamo anche alcuni fattori di incertezza specifici che riguardano il nostro paese. In questa prima puntata del Salone noi partiremo con due indagini che riguardano la platea dei risparmiatori. Parleremo anche di educazione finanziaria e di finanza etica e sostenibile. Le due indagini, la prima sarà quella di Demia, che è l'indagine centrale da cui muove il Salone, poi vi presenteremo anche il barometro del risparmio elaborato da una società di asset management, Natixis. Faremo il punto sulla situazione attuale per capire se stanno migliorando le conoscenze finanziarie degli italiani, da qualche tempo molto monitorati in questo senso. Vi presenteremo il libro del nostro Marco Lo Conte, Il risparmiatore maleducato, e poi, come vi dicevo, faremo anche un piccolo focus sul rapporto fra finanza e etica, perché, dobbiamo dirlo, necessita anche uno sforzo un po' più ampio da parte dell'industria finanziaria su comportamenti un po' più trasparenti verso la platea dei risparmiatori. E lo faremo con Alessandra Viscovi, autrice del manuale di finanza sostenibile e appunto esperta di questi argomenti. Ovviamente, come sempre, anche se siamo in diretta in esterna rispetto agli studi della radio, potete intervenire in diretta all'800 24 00 24 raccontandoci, se volete, quali sono i temi che vi stanno più a cuore in questo momento, quando pensate a voi come risparmiatori. Vi condizionano anche un po' le tematiche geopolitiche che in questo momento scaldano il mercato, oppure siete un po' più così indecisi su quelli che sono i vostri obiettivi di vita, i vostri obiettivi finanziari, quindi non sapete bene anche come discutere con il vostro consulente di tutto questo? Se volete, condividete con noi le vostre preoccupazioni, ne parleremo con i nostri ospiti. Allora, buongiorno e grazie di essere subito arrivato negli studi di Radio 24, di aver colto il nostro invito. Diego Martone, presidente e amministratore delegato di Demia. Buongiorno a tutti. Che è proprio la invito. Società appunto di inchieste che conduce, che ha condotto, che ha portato la indagine più importante, quella commissionata da Assogestioni, che ci racconta un po' cosa ne pensano in questo momento i risparmiatori italiani rispetto a tutti i fattori, come dicevamo prima, di agitazione generale. Benvenuto anche ad Antonio Bottillo, adesso dico tutta la carica per intero, dopodiché l'abbrevio nel corso della trasmissione, Country Head and Executive Managing Director per l'Italia di Natixis Global Asset Management. Buongiorno, ben trovati tutti. Ho passato l'esame della carica. Passato benissimo, mi può chiamare semplicemente Bottillo. Buongiorno a tutti, ben trovati. Grazie anche a lei, perché anche Natixis oggi ci presenta in anteprima il loro barometro del risparmio, un'indagine molto articolata, molto ampia, che pure ci dà l'idea di che cosa pensano i risparmiatori in questo momento rispetto allo scenario finanziario internazionale. internazionale. Bottillo, comincio proprio con lei. È la seconda edizione del barometro del portafoglio degli italiani, dei portafogli italiani, anzi, è più corretto dire, perché voi avete monitorato i consulenti. Sì, sì, è un'iniziativa che è nata qualche tempo fa e che sta dando alcune soddisfazioni, soprattutto in termini, diciamo, di dettagli e di informazioni che emergono, molto molto interessante. La prima edizione si è stata riferita semplicemente ad un portafoglio in modo particolare, il portafoglio cosiddetto classificato moderato, mentre questa edizione verte sui tre profili, no, che normalmente vengono utilizzati, quindi il prudente, il moderato e l'aggressivo. È una fotografia, come diceva lei, appunto, che emerge da una serie di portafogli modelli che ci sono stati inoltrati e che abbiamo controllato, e quindi emergono una serie di fattori. E devo dire che lei prima ha citato un passo dove faceva riferimento al fatto che l'investitore oggi diventa un po' più acculturato rispetto al passato, no? Mi viene da dire, l'industria si espande, il risparmiatore, no, si evolve, si trasforma, si addirittura, perché la trasformazione in atto è molto importante, quasi ontologica, dal risparmiatore ad investitore, ecco, c'è un passo molto molto importante da fare. Cosa emerge, diciamo, da questa? Le evidenze più importanti del vostro rapporto. Alcune cose di sintesi, poi magari lascio la parola e li prendiamo, ma una prima considerazione è quella dell'utilizzo degli alternativi. Ecco, si è molto parlato negli ultimi tempi di queste asset class, bisogna dire che gli italiani le utilizzano, più il portafoglio è prudente, maggiore l'utilizzo degli alternativi, addirittura un quarto del portafoglio la loro asset allocation, e questo, come dire, indici di un utilizzo che va nella direzione di abbassare la volatilità del portafoglio. Cosa intende per alternativi, se lo dovessimo spiegare a chi invece questa scelta ancora non ha avuto l'opportunità di farla? Strategie di investimento che possibilmente manifestano una decorrelazione rispetto ad altre, diciamo, asset class, rispetto a quello che può essere il mondo normale o naturale delle azioni e delle obbligazioni. Tra gli alternativi sono emersi con maggiore, diciamo, tendenza i global macro e i long short, non tanto le materie prime, giusto per dare, come dire, qualche dettaglio, e gli immobiliari, il che manifesta appunto un utilizzo che va a classificarli come riduttori di rischio all'interno, certo, del portafoglio, piuttosto che contributori di maggiore, certo, rendimento. Senta, dottor Bottillo, non per sminuire il suo ragionamento, certo, solo per spiegarlo bene ai nostri ascoltatori, molto spesso quando parliamo di asset class decorrelate, strumenti alternativi, molti risparmiatori pensano che siano, come dire, opportunità di investimento solo ad appannaggio di portafogli molto importanti, molto rilevanti. Oggi sono delle opportunità per tutti? Sono opportunità che sono alla portata di tutti, il mondo ne fa molto uso, gli investitori italiani hanno dimostrato di aver cominciato questa strada in modo molto netto, ripeto, l'utilizzo all'interno dei portafogli prudenti è al 25%, mentre quello dei portafogli moderati al 14% e quello dei portafogli aggressivi al 7%. Questo manifesta una tendenza che oltretutto è in atto non soltanto in Italia ma anche in altre regioni, in altri paesi, quindi va nella direzione di maggiore acculturamento, di utilizzo migliore, di ottimizzazione del portafoglio. Allora, poi torneremo sulla vostra indagine, perché ci piacerebbe anche fare un focus su quelle che invece sono le preoccupazioni che permangono nell'anima e nella, certo, testa, appunto, delle persone che accantonano con fatica, ma ancora in Italia lo fanno a costo di sacrificare appunto i consumi. Diego Martone, presidente e amministratore delegato di Demia, invece è stato il curatore dell'indagine condotta per Assogestioni, che viene presentata proprio in occasione della conferenza Inseguire la crescita, il punto di vista di professionisti e risparmiatori. Beh, anche lei si è divertito a fare questo sondaggio fra oltre 3.000, tra 3.000 individui, esatto, di età compresa? Tra i 18 e i 74 anni, quindi rappresentativi di 43 milioni di persone circa. Li ha, come dire, proprio targettizzati molto precisamente. Chiaramente abbiamo i millennials e poi gli altri che sono? Abbiamo i millennials dai 18 ai 34 anni, abbiamo la generazione X tra i 35 e i 54 anni e i baby boomers tra over 55. Qui siamo quasi tutti generazione X. Bottillo. No, over. Subito. Ha subito, ma io non lo volevo neanche dire, vede, perché non lasciamo quest'aura di mistero tra i nostri ascoltatori e le ascoltatrici soprattutto, e baby boomers, ma anche professionisti del settore. Anche professionisti del settore, abbiamo intervistato 410 professionisti divisi tra consulenti finanziari e consulenti bancari, e quindi abbiamo potuto apprezzare anche delle differenze molto interessanti tra su alcuni temi dove, certo, si pensa che le cose vengano viste nella stessa maniera, ma non è così. Le faccio subito un esempio: la motivazione principale con cui i risparmiatori accantonano del denaro è di di protezione, uno scudo per gli imprevisti, certo. La costruzione proprio di un serbatoio a cui attingere in qualsiasi caso negli imprevisti della vita, dal dentista alla e macchina che si rompe. Questo è il motivo per cui molto spesso anche si racconta, ce lo raccontano esponenti dell'industria del risparmio, fanno fatica in realtà ad assumersi una quota di rischio un po' più forte nel proprio portafoglio, perché in realtà la concezione dell'italiano è quello sempre di accantonare per tenere lì il borsellino pronto ad ogni evenienza. Ci dobbiamo fermare perché abbiamo il traffico, poi ritorneremo su questo andando proprio a spiegare, Martone, quali sono le preoccupazioni più importanti, quella per il futuro ce l'ha già detta chiaramente, ma anche il contingente quanto condiziona le scelte di risparmio degli italiani. Fra un attimo vi anticipo già che avremo anche un collegamento per la Banca d'Italia, con la Banca d'Italia per una novità che è arrivata proprio questa mattina, a tra pochissimo. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it col TH. Vi presenta Cuore e Denari. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, prima di proseguire sull'analisi delle nostre indagini che vi presentiamo questa mattina, che vengono in realtà presentate qui in occasione del Salone del Risparmio, edizione 2017, già un grandissimo affollamento, anche l'imbuto all'ingresso, come sempre capita nelle migliori occasioni, soprattutto nella prima giornata, ma qua abbiamo già tantissimi stand affollati appunto di partecipanti. Ricordo che l'apertura al pubblico è prevista per giovedì, e giovedì pomeriggio alle 14.15 c'è anche la conferenza di Radio 24, perché abbiamo già circa 200 iscritti, ma se volete continuare ad iscrivervi e quindi posticipare la partenza per il Ponte Pasquale, naturalmente potete anche farlo. Noi parleremo anche in questo caso di educazione finanziaria, l'abbiamo intitolata in maniera un po' provocatoria, poi vi racconto perché, diseducato a chi. Intanto ringrazio e saluto per essere collegata telefonicamente con noi Magda Bianco, titolare del servizio tutela dei clienti e antiriciclaggio di Banca d'Italia. Buongiorno. Buongiorno. Ci sente bene? Siamo qua. Allora, il tema è questo. Io faccio un po' un riassunto delle puntate precedenti. Vi ricorderete, tra settembre ed ottobre abbiamo organizzato alcune puntate di Cuore e Denari, anche con la collaborazione dei colleghi di Plus 24, del Sole 24 Ore, in cui abbiamo raccontato, anche a seguito di alcune segnalazioni che c'erano pervenute da parte di risparmiatori e correntisti bancari, di aumenti dei costi dei conti correnti che erano stati proprio giustificati dalle banche dal fatto che queste stessero finanziando e alimentando il fondo interbancario di tutela di depositi appunto, e per far fronte a tutte le crisi bancarie che, sapete, abbiamo raccontato in lungo e in largo in questi mesi. La Banca d'Italia interviene con una nota rilasciata appunto pubblicamente a fine marzo, fornendo, leggo testualmente dalla nota della Banca d'Italia, delle precisazioni agli intermediari proprio sul tema dello ius variandi, la cosiddetta modifica unilaterale delle condizioni contrattuali applicate alla clientela. Dottoressa Bianco, ci spieghi in termini semplici che cosa significa questo documento e soprattutto in qualche maniera che tipo di, tra virgolette, suggerimento, moral suasion, se mi passa il termine, date nei confronti del sistema bancario affinché garantiscano un rapporto chiaro e trasparente appunto con i clienti. Come diceva giustamente lei, abbiamo ricevuto segnalazioni di comportamenti che erano ritenuti scorretti nei mesi passati e nostre evidenze che poi abbiamo raccolto ci hanno indotto ad approfondire il tema. Va detto naturalmente prima di tutto che non è che non si possano modificare le condizioni contrattuali, questa è una relazione, quella con una banca è una relazione tipicamente di lunga durata, magari corrente, è stato aperto molti anni fa. E quindi è previsto proprio per legge che se intervengono dei fattori che non potevano essere prevedibili, dei costi per esempio legati a norme introdotte nel tempo, oppure immaginiamo variazioni dei tassi di mercato, bene, la banca può modificare le condizioni, è previsto proprio da una norma. Però siccome questo è un potere che ha già la parte più forte, cioè la banca, certo, sono dei vincoli per le banche. Vincoli che sono naturalmente a tutela dei clienti, la cosa deve stare già nel contratto, deve essere comunicata al cliente 2 mesi prima, deve esserci un giustificato motivo. Allora, cosa abbiamo fatto noi? Siamo intervenuti con la nota a cui lei faceva riferimento di pochi giorni fa per chiarire bene i limiti entro cui le banche possono esercitare questo diritto, dei criteri in base alla quale il loro comportamento sia effettivamente corretto e quindi diventi più leggibile, più chiaro per il cliente, la cui forma di tutela principale di fatto è il recesso, cioè è la possibilità, essendo avvisato 2 mesi prima, di chiudere il contratto e andarsene. Tra questi criteri che noi abbiamo dato, alcuni sono un po' tecnici, però le faccio un esempio. Per esempio, il ricorso a tanti motivi per cui si sta facendo questa manovra, per cui si sta rovesciando un aumento di costo sul cliente, beh, diciamo, non è proprio improntata a canoni di correttezza, perché può essere molto difficile per il cliente capire a quale motivo si riferisce ciascun pezzo dell'aumento. Cioè. Quindi una chiarezza nella comunicazione, una corretta attribuzione degli incrementi alle radici fondamentali di questo incremento sono un criterio importante. Oppure giustificare l'incremento con dei costi che sono stati sostenuti molto tempo prima, diciamo addirittura magari prima che si è aperto il contratto, è chiaramente un'azione scorretta. Chiarissimo. Noi abbiamo dato queste indicazioni agli intermediari che a questo punto devono fare una valutazione, rifare una valutazione rispetto alle modifiche che hanno proposto a partire dal 2016 per controllare se sono coerenti con questi criteri. E leggo anche nella nota, dottoressa Bianco, eventualmente prendere anche in considerazione iniziative correttive, compresa la restituzione delle somme alla clientela se fossero state come dire, richieste in maniera non consona rispetto anche ai vostri standard individuati adesso con questa nota. Assolutamente. Devono rivalutare tutto e nel caso considerare anche la restituzione ai clienti. Benissimo, allora noi siamo un po' concitati perché siamo qui al salone, dottoressa Bianco, ma magari ci ritorneremo prossimamente con un approfondimento un po' più ampio. Intanto la ringrazio per averci dato in anteprima questa notizia, per cui ribadisco agli ascoltatori che avessero notato aumenti dei costi dei conti correnti che la banca ha giustificato dicendo devo alimentare per esempio il fondo interbancario di tutela dei depositi, che in questo momento è intervenuto anche per esempio risarcire gli ex obbligazionisti delle banche risolte, fate attenzione perché non è detto che la procedura di richiesta di questo denaro sia stata corretta e addirittura può essere anche chiesta alla banca la restituzione di queste somme. Per cui ci ritorneremo, grazie a Magda Bianco, buona giornata. Buona giornata, grazie. Grazie. Allora Marco, quanto mi manca? Un minuto, direi che a questo punto Martone Bottillo, avete aspettato tanto, vi chiedo anche di aspettare per ascoltare appunto il nostro giornale radio, poi andremo proprio a sviscerare ancora meglio, abbiamo mezz'ora di tempo, i dettagli delle vostre due indagini molto rilevanti e quindi come sempre anche microfono aperto ai nostri ascoltatori, 800 24 00 24, vedo già qualcuno che si era preparato appunto ad intervenire, linea al la regia a Milano, a tra pochissimo. Sono Enrico Ruggeri, questa settimana storie di follia e di passione al Falco e il Gabbiano. Jim Jones, il reverendo che convinse 900 persone a compiere il più grande suicidio di massa della storia. E poi assieme al re dell'hard Franco Trentalance racconteremo la storia di Linda Lovelace e della sua gola profonda. E poi voliamo sulle ali di carta fino a una storia che io conosco molto bene, il sogno delirante del dottor Frankenstein. E ripercorriamo i 3 secondi più lunghi della storia del basket, Alexander Bielov e quel canestro a Monaco 72 con Dino Meneghin. E per finire George Michael, dagli esordi fino alla sua grande carriera chiusa tragicamente. Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 15.30 su Radio 24, il Falco e il Gabbiano. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Ed eccoci ritrovati in diretta dal Salone del Risparmio, oggi Cuore e Denari in trasferta per raccontarvi quello che succede in questo grande evento dell'industria del risparmio gestito appunto italiana, che quest'anno peraltro è protagonista di una grande novità. Molte SGR, società di gestione del risparmio per l'appunto, stanno lanciando i PIR, i piani individuali di risparmio, questa nuova modalità anche per consentire agli italiani di investire nell'economia reale con un vantaggio fiscale non indifferente. Avremo occasione di parlare in questi giorni. Oggi però siamo partiti da due grandi indagini presentate in occasione di questo evento, il barometro dei portafogli italiani a cura di Natixis, abbiamo il responsabile per l'Italia Antonio Bottillo, e poi l'indagine Inseguire la crescita, in realtà è la conferenza di Assogestione appunto portante di questa manifestazione e la plenaria, e per questa conferenza Diego Martone, presidente e amministratore delegato di Demia, ha presentato proprio un'indagine in cui sono stati coinvolti, sondaggiati in brutto termine, 3.000 individui, millennials, generazione X e baby boomers e oltre 400 professionisti del settore, e ci siamo lasciati appunto prima del nostro, della nostra pausa, proprio sui dettagli di questa inchiesta, Martone. E a microfoni spenti mi diceva che forse la percentuale più interessante da raccontare è quella di chi si dice abbandonato, di chi si sente un po' abbandonato e sfiduciato. Addirittura l'82% del vostro campione si sente una condizione come questa. Abbandonato da chi e perché? Un po' da tutti, questa è la cosa interessante, sia dalla politica, sia da chi dovrebbe quindi prendersi cura di loro, sia dal mercati finanziari, dalle istituzioni finanziarie, che addirittura vengono viste un po' in combutta i recenti casi da MPS. I complottisti insomma sono sempre dietro l'angolo. Sì, certo. Anche noi della radio ogni tanto ci finiamo. Anche voi avete abbandonato i risparmiatori. Sì. Il momento storico sicuramente è complicato e complesso, gli echi che arrivano d'oltreoceano con queste nuove politiche lanciate da Trump, e quindi lì si parla addirittura di dazi, qui non, gli risparmiatori non vedono questa necessità, ma sicuramente per far ripartire il paese uno dei temi importanti da un lato è la defiscalizzazione, e dall'altro è quello di favorire le aziende che producono e lavorano in Italia, come anche con una riforma profonda del mercato del lavoro che riguarda soprattutto la parte più giovane, che ha delle grossissime difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro, e questo non servo io a certificarlo, ma quello che è importante è che queste ansie, queste paure si stanno riflettendo su tutte le generazioni. Per fortuna non si sta creando un conflitto tra generazionale, cioè tra i millennials e i baby boomers, quindi i loro padri, i nonni anche, ma una forte solidarietà, quindi c'è un modello familiare che sta tenendo insieme il paese, dove viene compenetrata sia l'ansia che anche le soluzioni, e in una società che espande tutto quanto, gli orizzonti temporali della vita sono più lunghi, in questo momento il 22,3% della popolazione italiana ha più di 65 anni, da qui al 2050 diventerà il 33,1%, lo dice l'Istat, quindi vuol dire che avremo un invecchiamento, molte più persone che continueranno a vivere, a consumare, a risparmiare, ma questo elastico temporale che si è allungato fa sì che in realtà si sono spezzati gli orizzonti temporali di lungo termine, e si lavora ormai soltanto su segmenti molto brevi, 4-5 anni, sia per i giovani che anche certo. Per i... Perché? Perché l'incognita del futuro è tale per cui il risparmio deve essere disponibile, pronto a essere utilizzato per le necessità di tutti i componenti della famiglia, dai nonni ai nipoti. Con un flash, l'industria del risparmio, secondo lei, le raccoglie o meno queste esigenze, queste istanze, queste preoccupazioni, o appunto questo tema dell'abbandono che lei ci ha indicato ci indica anche che anche dall'industria del risparmio appunto l'italiano è, si sente un po' non adeguatamente servito, assistito. C'è del disagio sicuramente nel rapporto con l'istituzione finanziaria da un lato, perché la fiducia verso le banche è in calo e anche verso gli organismi di controllo, chi avrebbe dovuto garantire che certi tipi di scandali non accadessero. Certo. D'altro canto, quello che ne accennavamo prima, la prima parte, è molto interessante. Mentre la motivazione del risparmio per la famiglia è quindi proteggersi, crearsi uno scudo, e soprattutto in questo momento di crisi, e anche qualora ripartisse l'economia, prima viene il risparmio, poi verranno i consumi, i consulenti bancari e finanziari interrogati a proposito dicendo: ma la maggioranza dei tuoi clienti che cosa ha in mente quando vuole risparmiare? Loro pensano che nel 36% dei casi dicono è un modo per aiutare oggi e in futuro la propria famiglia, i figli o i nipoti, e il 24% dice un modo per pensare alle necessità future quando saranno anziani. Quindi in realtà questo dialogo che avviene, certo, o c'è un non detto o quello che viene detto viene interpretato in modo diverso, no? Quindi probabilmente questa cosa del non voler vincolare il denaro, di dire ok, faccio questo investimento, però se ho bisogno di quei soldi li voglio subito senza penali, non viene veramente compreso, e questo, certo, sicuramente crea del disagio. Bottillo, torno a lei. Voi siete un grande player appunto internazionale. Adesso dobbiamo ancora completare di raccontare altri aspetti di questo vostro barometro dei portafogli italiani, ma come ci si sente ad operare in un paese che ha ancora uno stock di risparmio particolarmente consistente e significativo, ma dove però il disagio del risparmiatore ogni tanto insomma torna necessariamente a manifestarsi, un po' perché i risparmiatori sono colpiti da questi casi di risparmio tradito, un po' perché qualche volta gli scossoni di mercato non vengono adeguatamente spiegati alle persone, per cui dicono di tollerare i rischi ma poi in realtà all'atto pratico non tollerano alcunché? Insomma, come vivete come industria questo? Non vorrei dire qualcosa di banale, ma tutto questo è estremamente interessante perché comporta delle sfide, comporta delle scelte. È fuori di dubbio che l'industria oggi è chiamata nella sua, come dire, trasformazione, nel suo processo di innovazione, ad un compito ben preciso. Deve far emergere, come dire, e rendere visibile l'impatto sociale che dà. Ecco, tento di spiegarmi meglio. A livello di industria, se dovessimo, come dire, avere l'esigenza di acquistare una macchina confortevole, sapremmo dove rivolgerci, no? Ci sono alcuni brand che vanno in quel senso. Se dovessimo invece sceglierne una utilitaria, anche se dovessimo invece in qualche modo tentare di come dire, decidere verso l'industria del risparmio gestito, è un po' più difficile. Ecco, questo è vero, questo va considerato, va ammesso, però non va dimenticato che diversi sono gli attori, l'industria si sta muovendo in un ambiente, in un'ottica veramente importante. Certo, da questo punto di vista anche i risparmiatori vanno aiutati, ci sono degli errori classici che i risparmiatori fanno, no? Innanzitutto è già stato citato. E voi le monitorate anche molto assolutamente, attentamente nel barometro. Certo. Quali sono? Per dire, non so, l'orizzonte temporale è troppo breve e anche la regolamentazione sta andando verso quella strada, oppure non so, l'obiettivo riferito soprattutto ad un rendimento che spesso e volentieri è veramente oltre quella che può essere una situazione realistica. Agire in base alle emozioni, non avere un piano finanziario di riferimento. Ecco, non bisogna anche dimenticare che l'investitore italiano è sempre stato particolarmente attaccato al concetto di rendita, rendita che sia frutto di, non so, investimenti immobiliari e quindi gli affitti, o semplicemente attraverso l'investimento in obbligazioni italiane, BTP, ieri i BOT. Ecco, quindi diciamo anche una scarsa propensione al rischio. Oggi invece il mercato si è mosso in modo tale da costringere, tra virgolette, quasi i risparmiatori, che dovrebbero diventare investitori, prendendo più rischi, ecco. E di qui chiaramente un ruolo importantissimo che sarà giocato dalla consulenza in linea trasversale, molto molto importante. Certo. I consulenti e l'industria dovranno lavorare gomito a gomito, no? Nel tentativo di dare delle risposte che siano delle soluzioni, non certamente quella di dire che ne so, insomma, ho questa idea per battere un indice di mercato. Evidentemente gli obiettivi degli investitori sono molto diversi, peraltro già citati, no? Si pensa a finanziare la scolarizzazione dei propri figli, all'acquisto di una prima casa, all'inizio di un'attività imprenditoriale. Molto molto ancora più importante è quella di svolgere poi un tenore di vita no, adeguato nel momento in cui si lascia il mondo del lavoro. Quindi Marco Lo Conte, il Sole 24 Ore. Buongiorno. Ma quanto hai scritto, quanti fiumi di inchiostro hai versato su questi argomenti, proprio nelle modalità che stiamo provando appunto a rispiegare di nuovo con i nostri ospiti? Eppure oggi nel 2017 c'è ancora moltissima strada da fare nel provare a dare delle istruzioni per l'uso dei modelli di comportamento ai risparmiatori che continuano ad ostinarsi a fare gli stessi errori. Ovviamente è il grande tema del momento, il grande tema su cui si è cimentato lo scorso anno il Salone del Risparmio, quello dell'educazione finanziaria. Quest'anno si ritorna un po' invece ai temi tradizionali per l'industria. E però insomma tu presenti anche il tuo libro Il risparmiatore maleducato. Prima di raccontare che cosa ci racconti, però mi pare che sia un testo assolutamente in linea un po' con le considerazioni, sì, fatte fino a questo momento. Beh sì, perché gli errori si fanno continuamente, le scelte sono raramente razionali, diciamocelo, le scelte si fanno per vie che hanno poco a che fare con il calcolo, la scelta oculata, razionale, il calcolo di convenienza, il confronto tra proposte diverse. Questo purtroppo è un dato estremamente raro. Diciamo, sottolineiamo tante volte, e la cronaca purtroppo ci registra, ci pone sotto gli occhi i casi in cui le scelte finanziarie sono state fatte perché si ripone una fiducia nei confronti di una banca, di un intermediario, di un'assicurazione, ma molto più spesso per passaparola, il vicino di casa, il parente, l'amico che dà il consiglio ha una capacità di convincimento estremamente superiore a quella di un intermediario qualificato e professionale. Perché? Ma perché ci si fida, perché il risparmiatore spesso è pigro, non ha voglia di mettersi lì a capire come funziona quella correlazione tra esigenze e risposte finanziarie, e dunque si fida di chi ha già fatto qualcosa. Il mio libro parte proprio da qua, dalla storia, un aneddoto di un collega che tempo fa mi chiedeva: non mi dire quale fondo pensione è, esatto, il più idoneo razionalmente. Dimmi che cosa hai fatto tu. Esatto, capita. Questo capita è tipico spesso di chi non ha voglia, evidentemente. Guarda, noi capita con la radio, ci scrivono tanti risparmiatori con delle situazioni difficili che hanno molto spesso anche il pudore di raccontare, addirittura in famiglia. E mi ricordo molto bene della situazione di una signora che mi scrive: mi dica lei, Deborah, che cosa direbbe a sua mamma di fare se si trovasse nella mia posizione. Io le ho spiegato: guardi, mia mamma vive una situazione completamente diversa dalla sua, per cui non possono essere distribuite, date le stesse ricette di comportamento. Chiaro. Per cui in primo luogo è questo: ognuno ha i suoi obiettivi di vita, le sue esigenze, le sue entrate, le sue uscite, per cui le sue questioni le deve assolutamente gestire in maniera individuale. Peraltro, Diego Martone, anche nell'indagine di Demia, il capitolo educazione finanziaria viene toccato. Con che modalità? Perché noi continuiamo ad attribuire grandi responsabilità al risparmiatore, non si interfaccia in maniera corretta con il proprio consulente, alla fine magari il consulente ce l'ha ma non si fida ed è sempre meglio quello che dice l'amico, il vicino di casa, e però poi manifesta a parole grande sensibilità sull'argomento e dice: sì, io vorrei saperne qualcosa di più, ma qualche volta non so neanche da dove cominciare. Esattamente, la domanda di educazione finanziaria è crescente, è molto alta in Italia, è già 3 anni che monitoriamo questo tipo di fenomeno. Siamo l'83% degli italiani che dicono vorremmo un programma di educazione finanziaria, e addirittura il 97% tra invece i consulenti. Io mi soffermerei su un altro dato che fa proprio gioco rispetto a quello che stavate dicendo, cioè abbiamo chiesto agli italiani: ma che voto ti daresti in quanto a competenza finanziaria? In questo è il primo anno in cui viene un 6 risicato, viene 6,2, ma è molto carino sapere cosa pensano i consulenti dei loro clienti. I consulenti dei loro clienti danno un bel 5, cioè non ci siamo proprio. Viceversa, gli italiani al proprio consulente danno 7,3 e i consulenti a se stessi danno 8,4. Piccola parentesi, ai colleghi 7,5 perché ne sanno meno, chiaramente. Certo. C'è questo ego molto forte. E, i nuovi strumenti digitali stanno aiutando anche a questa relazione, anche se solo parzialmente, nel senso che vengono visti i robot advisor come delle cose che devono essere usate dai consulenti più che dai risparmiatori. Sì. Diciamo che anche noi adesso siamo di questa idea. Non siamo assolutamente in quegli scenari futuristici in cui si parla con il software. È anche molto interessante vedere che parte del campione vede nel consulente, nella figura del consulente, oltre che un professionista, una guida per i mercati, è da questo punto di vista anche indispensabile, perché quando si va su prodotti un po' più complicati non c'è niente da fare, bisogna avere qualcuno che è competente, però il 20% dei risparmiatori ci dicono che è anche un venditore, e mentre i consulenti non ha assolutamente questa percezione, solo il 3% dice sì, siamo anche dei venditori. E un altro dato anche che mi piace citare è che il 72% dei risparmiatori ci dicono: sì, consulente bancario e finanziario, attenzione, perché è legato all'organizzazione per cui lavora e quindi in realtà fa gli interessi della sua società che i miei. Non abbiamo scoperto oggi il mal di budget, Marco, no? No, il mal di budget, detto per i non addetti ai lavori, è quel pressing che le reti commerciali di distribuzione fanno su il venditore finale, allo sportello bancario, ma in tutti i punti in cui un venditore ha a che fare con la clientela. E chiaramente è evidente uno strutturale conflitto di interessi che finora è stato in qualche modo gestito, non perfettamente, ma che ora va a modificarsi totalmente, perché con l'introduzione, quando ci sarà, della MiFID 2, teoricamente dovrebbe crearsi una nuova struttura commissionale, cioè di pagamento, di remunerazione per il distributore. Chiaramente questo pone delle sfide nuove, ma tanto per andare sul concreto, in futuro il distributore, il venditore / consulente di strumenti finanziari sarà sempre più attento alla clientela affluent, alla clientela che avrà un portafoglio minimo consistente. Chi è sotto, adesso dico delle cifre giusto per avere un'indicazione, ma sotto i 50.000 euro di portafoglio, ma difficilmente potrà essere un cliente appetibile per un consulente che deve mantenere degli standard di qualità di livello, e dunque si rischia di lasciare fuori, certo, di ritornare di nuovo ad essere pieni di obbligazioni subordinate che sono tantissime. La Banca d'Italia, il governatore Visco l'altro giorno ha sottolineato come un'obbligazione su 5 sia un'obbligazione bancaria su 5 sia subordinata, sono strumenti di grado di rischio superiore. È paradossale che siano nelle tasche dei risparmiatori italiani. I casi Monte dei Paschi degli ultimi esposi negli ultimi tempi, ma di cui sul Sole 24 Ore scriviamo da anni, purtroppo sono lampanti. Purtroppo scriverne negli anni passati, nel momento in cui quei titoli sono stati emessi, non è stato sufficiente per frenare, diciamo così, la cattiva consulenza, la cattiva educazione finanziaria. Ciò detto, noi facciamo la nostra parte, quella di indicare i problemi dove sono e cercando di tracciare i possibili caveat di una situazione in evoluzione. Detto francamente, il risparmiatore è solo e sarà sempre più solo, perché l'onere delle scelte sarà sempre su di lui. La fiducia è un concetto troppo astratto da applicare nella relazione consulente-risparmiatore. Il consulente deve fare la sua parte, ma il risparmiatore deve sapere, certo, che ha di fronte un professionista che è remunerato per una serie di attività, ma le scelte e i soldi sono suoi, esatto, e quindi deve essere consapevole di quello che fa in maniera molto attenta. E non aver paura di fare delle domande. domande. Bottillo, ritorniamo a lei, le faccio fare anche un po' il suo lavoro, che è quello di come dire, monitoraggio dei mercati finanziari, perché oltre a tutto quello che deve fare risparmiatore, interfacciarsi con un consulente adeguato, essere in grado di fargli le domande giuste, prepararsi, essere sempre più pronto ad affrontare anche un rischio maggiore del proprio portafoglio, certo, deve guardare anche i mercati finanziari. Questa situazione di tassi di interesse che rimangono ancora molto bassi, la Banca Centrale Americana aumenterà gradualmente quest'anno, un po' di ritiro di stimolo monetario dalla Banca, sì, Centrale Europea c'è, ma ancora niente di particolarmente significativo, è una condizione che comunque rimarrà ancora per un po'. Come la deve affrontare un piccolo risparmiatore? È una condizione che rimarrà ancora per un po', e guarda caso è anche uno degli elementi che emergono, no, tra le riflessioni che il barometro propone, quindi riferendoci a questa parte, quindi il reddito fisso, le obbligazioni, emerge che in realtà l'investitore pare poco disponibile ad investire in questa asset class, soprattutto teme il rischio cosiddetto di duration, quindi di direzionalità dei tassi di interesse, ma anche qui, senza voler fare una proiezione di dove andranno i tassi di interesse, andranno verso la salita, si dice da un po' di tempo, ma lasciamo per un attimo questa cosa, perché vorrei anche sfatare un mito, insomma, che in condizioni di rialzo dei tassi di interesse le obbligazioni non debbano far parte dei portafogli. Io vorrei ricordare che è qui l'inciso, almeno per quanto ci riguarda, nei confronti dell'investitore va sicuramente nella direzione di tentare di coinvolgerlo e di far sì che diventi un po' più consapevole, perché giustamente, come diceva, lo conte sarà sempre da solo, e allora a questo punto, se da solo bisogna essere, bisogna anche cominciare a prepararsi. Volevo sfatare questo mito delle obbligazioni in rialzo dei tassi all'interno del portafoglio. Sono tre in generale gli elementi che concorrono al rendimento della componente obbligazionaria all'interno di un portafoglio, quindi cominciamo a ragionare più in un'ottica di portafoglio e meno in un'ottica di prodotto semplice, no, to cure. Uno è l'andamento dei prezzi, ovviamente, chiaramente con la salita dei tassi i prezzi scendono e viceversa. L'altro sono i flussi cedolari, il terzo è il reinvestimento dei flussi cedolari. Queste tre cose vanno considerate in una certa ottica. Non solo, bisogna anche cominciare a considerare l'utilizzo delle singole obbligazioni all'interno del portafoglio come compito, come ruolo. Faccio un esempio, poi taccio. Sotto la stessa categoria vengono ricompresi, non lo so, i BTP italiani e i Bund tedeschi. Ecco, il ruolo che il BTP italiano ha avuto in questi ultimi tempi in termini di rendimento è quasi 8-9 volte quello del Bund, però ha una correlazione molto elevata, una correlazione positiva nei confronti dell'andamento dell'azionario europeo, cosa invece che non ha il Bund. Quindi a seconda di come si mette all'interno del portafoglio, io non avrei mai pensato di considerare, non so, un Bund tedesco come risk, certo, come return enhancer, e un BTP come risk reducer. Quindi adesso non vorrei complicare tradurre, le cose. Esatto, no, esatto, perché poi le devo chiedere la contestuale traduzione di questi non concetti. Non avrei mai considerato nell'ambito della stessa categoria di appartenenza, quindi obbligazioni di Stato, no, europei, che il BTP italiano potesse essere considerato come un riduttore di volatilità. Chiaro. Fa parte di paesi periferici, certo, sappiamo tutti che in concomitanza di elezioni gli spread aumentano, infatti in Francia e il Bund addirittura, no, come portatore di maggior rendimento, perché la curva, le emissioni tedesche 7-10 anni hanno comportato quasi il 25% di rendimento all'interno di un portafoglio. Quindi vede, voglio semplicemente tentare di dire, bisogna avere maggiore consapevolezza e cominciare a formarsi del ruolo che ciascun ingrediente ha, certo, all'interno del portafoglio, e non riferirsi ad una generalizzazione come abbiamo fin qui fatto. Allora, mi rendo conto che avreste voluto dire tante altre cose, il tempo a nostra disposizione. Martone, ma in 30 secondi, perché sono già fuori. Sì, colgo questo discorso come esattamente quello che il risparmiatore fa difficoltà a capire, cioè ha bisogno di parlare di fragole, di mele, di pere, non di come vengono coltivate, perché non riesce a capire. Allora, il tema è che per la consulenza ci sono ancora moltissimi spazi di crescita, esattamente come per la preparazione delle persone. Bisogna sforzarsi tutti un po' di più, da parte dell'industria essere naturalmente chiari, in uno scenario che però è complicato, purtroppo quello non lo possiamo ridurre il grado di complicazione, non esiste più come dire, quello scenario che indicavamo all'inizio, in cui andava tutto nel mattone e nel titolo di Stato. Qua siamo proprio in una condizione completamente diversa. Allora, per adesso io ringrazio Antonio Bottillo e Diego Martone che ci lasciano. Marco Loconte rimane con noi, ci raggiunge fra un attimo Alessandra Viscovi. Nel frattempo io vi racconto cosa sta succedendo stamattina in borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento. Cuore e denari. Ed eccoci ritrovati in diretta dal Salone del Risparmio. È arrivato anche il Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan. Abbiamo anticipato un po' del contenuto delle sue dichiarazioni alla plenaria appunto dell'evento. Il Paese, dice, si trova in una fase di transizione verso una crescita più solida. La stiamo inseguendo, dobbiamo rafforzarla. Il Governo è pienamente impegnato in questo. Negli ultimi 12 mesi, anche aggiunto il Ministro appunto dell'Economia, il sostegno strutturale non ha perso slancio, ha indicato il ministro. Noi continuiamo con il nostro Cuore Denari in diretta da qui. È rimasto con noi Marco Loconte, fa anche un po' ridere dire collega del Sole 24, perché Marco è un amico. Eccoci qua, siamo in diretta su Facebook dal tuo profilo. Tra pochi istanti Marco è venuto a presentarci il suo libro freschissimo di stampa, Il risparmiatore maleducato, ecco come le trappole mentali ci condizionano quando abbiamo a che fare con il denaro, peggiorando il nostro livello di educazione finanziaria, un tema che lui segue da sempre, da quando, prima di lasciarlo a me, conduceva Salvadanaio appunto dalle onde di Radio 24. Ci ha raggiunto anche Alessandra Viscovi, una grandissima esperta di finanza etica, di finanza sostenibile. Buongiorno, ciao, benvenuta. Deborah. Ciao e grazie, ciao, per essere Marco. Con noi. È responsabile education di Altis, l'alta scuola impresa e società, esperta del mondo del risparmio gestito etico, e anche per lei fresco di stampa il libro Manuale di finanza sostenibile e responsabile, un libro per consulenti finanziari oltre che per risparmiatori, perché naturalmente noi invitiamo sempre anche gli intermediari e l'industria ad avere atteggiamenti un po' più improntati all'etica, alla correttezza di comportamento. È anche vero che però, Alessandra, quando proviamo a mettere insieme due termini, etica e finanza, significa costruire un ossimoro, perché sono teoricamente due termini che si elidono a vicenda. Eppure dobbiamo anche come risparmiatori comportarci in modo tale da indurre un cambiamento verso la correttezza di comportamento degli intermediari. Un po' forse ci siamo riusciti negli ultimi anni, anche se le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Bravissima, è proprio così. Negli ultimi anni abbiamo assistito proprio a un movimento, specialmente in Italia, dal basso, che ha portato anche l'industria ad interrogarsi, e questo movimento attualmente cuba quasi 5 miliardi, quindi insomma sono tanti i risparmiatori retail che cominciano a interrogarsi su dove va a finire il loro denaro e chi stanno finanziando con il loro denaro. Quindi direi che questo simbolo è vero, c'è sempre, però dobbiamo riportare il tutto anche al concetto della responsabilità sociale di impresa. Quindi fare finanza etica non vuol dire fare devoluzione, fare beneficenza, vuol dire ottenere rendimenti, però andando ad investire in quelle aziende che sono più meritevoli da un punto di vista proprio della responsabilità sociale. Quindi attenzione all'ambiente, attenzione a una buona e sana governance, attenzione proprio all'impatto sociale dell'impresa e della filiera poi. Quindi un movimento che sta crescendo e che si sta davvero alimentando di tante tematiche, dalla stewardship quindi sta responsabilizzando. Che cos'è la stewardship? È come si esprime il diritto di voto, no? Quindi il fatto che io attraverso il mio diritto di voto posso cambiare o come posso condizionare il comportamento del management nelle imprese, quindi sostenere delle emozioni di investitori attivi che appunto si spendono magari per evitare la schiavitù minorile, piuttosto che l'attenzione alla salute e alla sicurezza, piuttosto che appunto regole corrette di buon governo delle imprese. Tutto questo aiuta proprio la finanza sana, quindi la finanza cosiddetta sostenibile. e quindi questo movimento insomma sta crescendo, devo dire, in maniera esponenziale, sia a livello globale, ormai siamo arrivati a 21 trilioni di dollari, quindi veramente un numero spropositato. Noi ne abbiamo parlato anche in un'altra trasmissione, abbiamo parlato in diverse trasmissioni, abbiamo ricordato, mi ricordo anche fatto il quizzone ai nostri ascoltatori, li avevo costretti a studiare, avevo chiesto loro di andare a ricercare quando fosse nato il primo fondo di investimento a livello mondiale appunto di natura etica, quella data risale al 1928 quando venne lanciato il Pioneer Fund, che aveva messo al bando società di settori reputati un po' controversi, quindi il tabacco, alcol, gioco d'azzardo, erano gli anni del proibizionismo. Se invece dovessimo indicare una data italiana, Alessandra? Allora, come data italiana abbiamo sicuramente il 97, quando viene lanciato il primo fondo azionario internazionale etico in Italia, del San Paolo, e poi direi il 2001 quando nasce il Forum per la Finanza Sostenibile. Il Forum per la Finanza Sostenibile attualmente è un'associazione di investitori, ma anche multi stakeholder, che appunto lavora sui temi della finanza sostenibile. Certo. Marco, allora, ho fatto fare queste premesse ad Alessandra Viscovi perché un po' anche nell'educazione finanziaria degli italiani c'è molto, come dire, di etico. Io stessa, tu questo libro lo presenterai un po' anche portando queste considerazioni. Ci ho organizzato addirittura una conferenza qui al Salone del Risparmio che ho intitolato Diseducato a te, perché devo dire che mi sono anche un po' stancata di sentir sempre attribuire questa grande responsabilità all'italiano, alla famiglia, che tutti giudicano come dei grandi, insomma, ignoranti, perché non sanno, non hanno voglia di informarsi, e questo è sicuramente vero, perché lo sforzo in più si può fare, ma è anche vero che molto meno forse l'industria si è messa in discussione verso quella direzione etica che dicevamo. Tu sei di questa stessa idea oppure è davvero un po' colpa dell'italiano che è strapigro nello studiare queste materie, che facili non sono, però insomma la tua vita finanziaria è importante. Sono i nostri soldi, perché non curarcene? Perché dobbiamo dilapidare quello che faticosamente abbiamo guadagnato o ereditato e che rappresentano non soltanto il risparmio, non soltanto del denaro che balla nelle nostre tasche. Quello che abbiamo in tasca non è soltanto denaro, sono il frutto dei lavori nostri e dei nostri genitori, di chi ce l'ha lasciato, ma sono anche i sogni dei nostri figli, quelli da realizzare, sono gli obiettivi di vita da perseguire con cura, con attenzione, e la grande responsabilità che abbiamo è fare in modo che il denaro che abbiamo in tasca non venga perso, anzi che possa crescere evidentemente. E invece noi tendiamo ad essere dei cacciatori di scorciatoie. Esatto, perché le scorciatoie sono tantissime, no? Faccio come l'amico, oppure scelgo di investire alla Warren Buffett, alla George Soros, sono divertismo giornalistici a volte, e qui anche noi comunicatori dobbiamo fare mea culpa, però bisogna dire anche, per dare un messaggio equilibrato, abbiamo sottolineato gli elementi di difficoltà, di pigrizia, ma dobbiamo anche dire che, e sono tanti purtroppo, l'84% degli italiani, pensate, secondo l'indagine di Censis Doxa Intesa San Paolo, dedica meno di un'ora a settimana alla cura del proprio denaro, bancomat compreso, controllo del portafoglio compreso, è veramente pochissimo. Chi si cura del proprio denaro purtroppo è una minoranza, però d'altra parte c'è una fortissima richiesta di informazione. Allora come contrastare questa pigrizia, questa maleducazione finanziaria? Beh, informandosi, sicuramente l'informazione e la formazione, perché è un conto la notizia che noi giornalisti registriamo, ma un conto poi è il mini approfondimento della parola chiave, della brochure che cerchiamo di divulgare e di distribuire, delle notizie che poi oggi sulla rete sono diffusissime, esatto, ed è facile andare a trovare. L'informazione, la consuetudine con la materia fa tantissimo. Io non sono capace ad aggiustare la lavatrice, però se mi capita di doverlo fare spesso poi imparo, e allora esageriamo, io no, te lo dico già, io, la lavatrice, guarda, no. Alessandra, non so tu se vuoi metterci le mani, no. Ma ecco, adesso che non lo sappia mia moglie, soprattutto, io poi alla fine me la cavo. Il punto è che tutto ciò, la consuetudine fa abitudine e fa anche competenza e poi è necessario costruire un minimo di metodo. Io in palestra qualche tempo fa ho incontrato un VIP che mi diceva: ma tu che lavori al Sole 24 Ore, ma cosa mi dici questi titoli in cui ho investito? Cioè. E mi ha fatto una serie di titoli che stanno andando particolarmente male e mi ha detto: ma scusa, gli ho chiesto, ma cosa stai facendo? Ah, io niente, sto aspettando che salga. Ma scusa, hai messo uno stop loss? No, non so che cosa sia. Certo. Lo stop loss è un limite massimo. Oltre al quale non si è più disposti a tollerare appunto le perdite. Banalmente, quindi, certo. È un piccolo strumento che evita di perdere troppo, no? Perché non ci si deve innamorare dei titoli. Se vuoi investire in autonomia direttamente in titoli, altrimenti fai una diversificazione, un'altra cosa. Ecco, un minimo di metodo ci vuole per gestire la salute del proprio denaro. Allora, vi devo adesso fermare perché abbiamo di nuovo il traffico, però prima di dimenticarci delle fondamentali informazioni di servizio. Il tuo libro, Marco, dove lo troviamo? Lo trovate su Shopping24, che è il marketplace del Sole 24 Ore, www.shopping24.it, e lì potete trovarlo sia in versione cartacea che digitale. Per tutte le informazioni c'è una pagina Facebook che è col mio nome, Marco Lo Conte, con la L minuscola come l'anagrafe prevede, o il chiocciola Malo Conte, perché purtroppo Marco Lo Conte era già occupato. Lo facciamo veicolare anche dal nostro Marco Lombardo, che grazie, è il mio assistente anche oggi qui al Salone, mentre Alessandra Viscovi, questo libro sulla finanza sostenibile e responsabile è stato scritto, è commissionato da una società che peraltro è qui presente al Salone. Esatto, si può trovare lì presso lo stand della Raiffeisen. Questo me lo lasci, ce ne regali un paio che lo regaliamo anche ai nostri ascoltatori appassionati di questi argomenti. Non abbiamo terminato, abbiamo ancora 10 minuti di tempo per stare insieme, adesso però il traffico. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta. Cuore e denari. Eccoci di nuovo insieme, l'ultimissima parte di Cuore Denari in diretta dal Salone del Risparmio, edizione 2017, li abbiamo chiamati, si prenotano e poi non li facciamo intervenire e no, non ci stanno gli ascoltatori giustamente. Allora sentiamo un po' Walter che vuole partecipare a questa nostra puntata in trasferta. Walter, buongiorno da Pesaro. Buongiorno. Urbino, quindi buongiorno, raccomandatissimo perché è marchigiano come me. Grazie. Osservavo che i mercati non si stanno affatto spaventando dei notevoli rischi, Francia, Trump, protezionismo, tasse, attentati. Cosa sta controbilanciando questo equilibrio? Io non riesco a capire cosa stia controbilanciando questi rischi e quanto è ritenuto da lei solido questo controbilanciamento. Certo. Ah, Walter addirittura lo chiede a me. Guardi, adesso abbiamo fatto andare via tutti i nostri esperti di mercati, però insomma qualche ragionamento con Marco Lo Conte possiamo farlo. Ma allora stamattina sul titolo di Stato francese qualche segnalino di nervosismo l'abbiamo visto, poi non è che abbiamo delle deflagrazioni a modi esplosioni, per fortuna. Credo che siano ancora le banche centrali ad arginare molti rischi, Marco. Assolutamente molta, sì. Molta volatilità, molte preoccupazioni. Il fatto che il titolo di Stato francese salga al rendimento e quindi scenda il prezzo e il rendimento salga fino all'1% è indicatore di una tensione da parte del mercato che vede la crescita di spinte populiste, sono state, chiamiamole così, non mi piace il termine, però insomma la crescita, la stabilizzazione della Marine Le Pen, ma la crescita di Mélenchon, della sinistra francese, rischia di, come dire, di non piacere, insomma non piace al mercato, e quindi in vista delle presidenziali francesi questo è un tema, elemento. Lo spread tra Francia e Germania è un indicatore molto osservato dagli investitori internazionali, perché la Francia è importante. Chiaramente non ci sono sul mercato tanti titoli quanto i BTP italiani, purtroppo, perché purtroppo di debito pubblico in giro ce n'è tantissimo, debito pubblico italiano. Chiaramente, come giustamente dicevi tu, le banche centrali, il quantitative easing è un argine straordinario a queste tensioni di mercato, perché quando hai un prestatore di ultima istanza sostanzialmente che compra i titoli di Stato dei paesi europei, chiaramente il mercato non si mette contro le banche centrali e dunque i rendimenti rimangono bassi, anche se ogni tanto testano. Senti, ma è un risparmiatore maleducato in termini di educazione finanziaria, un risparmiatore che si interroga su queste dinamiche, o ben educato, interessato, fa bene anche... Il nostro ascoltatore fa benissimo a interessarsi, ad andare alla ricerca delle spiegazioni dei fatti. Questo è la linea guida è la luce che ci deve sempre orientare, andare a cercare di capire la ragione di quanto ci accade intorno nella vita, così come per quanto riguarda l'economia e la finanza. Perché? Perché solo così possiamo tutelare i nostri risparmi. Poi non sempre ci sono risposte ultimative, perché concorrono tanti fattori, anche semplicemente alla fissazione del prezzo di un titolo sui mercati, che oscillano continuamente. Ma capire le ragioni di quanto accade è fondamentale per prendere delle decisioni consapevoli all'interno di un nostro metodo, di una nostra strategia, che non sia possibilmente di brevissimo termine, ma che ci consenta anche di guardare a lungo termine. Perché guardare nei prossimi anni ci mette più tranquilli anche nel nostro presente. Assolutamente. Alessandra Viscovi, tornando un po' alle nostre tematiche, la finanza sostenibile e responsabile, il valore di base di questo mondo attiene alla reputazione, e oggi sicuramente la componente politica che sta alla base anche un po' di molte scelte di investimento è un tema molto attuale e molto interessante. Come lo possiamo spiegare ai nostri ascoltatori? Ma sentivo prima parlare di fiducia, no? Quindi le scelte di investimento spesso passano attraverso la fiducia, e la fiducia è qualcosa che è molto collegata con la reputazione della società di gestione piuttosto che del prodotto finanziario. Ecco, la finanza etica, diciamo, si basa molto sul concetto della reputazione. Se uno fa uno sbaglio e quindi sceglie un'azienda magari che viola gravemente l'ambiente o che sfrutta appunto il lavoro minorile, certamente oppure anche può, un paese governato politicamente in un certo paese, modo, esatto, dove i diritti civili vengono assolutamente non tenuti in considerazione, quindi ci sono normative molto molto blande. Quindi, per dire, un fondo cinese la finanza etica non lo concepisce neanche lontanamente, diciamo che si fa molta fatica. Però i due concetti della finanza etica sono: da un lato, come dicevamo, la finanza etica è partita con una serie di no al tabacco, no alle armi, no all'alcol, no alla pornografia. Adesso la finanza etica, la finanza sostenibile, si sta orientando soprattutto verso l'orientare le scelte degli investitori, e qui i nostri risparmiatori hanno un grande potere, perché possono davvero fare delle scelte più consapevoli. Quindi si cerca il dialogo, quindi l'integrazione e il dialogo sono le due modalità proprio della finanza cosiddetta sostenibile: il dialogo con le imprese per cercare di cambiare proprio dall'interno come azionisti responsabili le imprese, e l'integrazione da parte delle società di gestione tenendo conto dei fattori cosiddetti environmental, social and governance. Se dovessimo con due parole dare una descrizione dell'investitore italiano, dell'approccio del risparmiatore italiano all'investimento socialmente responsabile, qual è? In 40 secondi, il numero dei fondi distribuiti tra il 2013 e il 2015 in Italia sostenibili è aumentato del più 26%. Nel solo 2016 ci sono oltre 20 nuovi fondi sostenibili distribuiti, quindi già questo vuol dire che c'è domanda, e secondo me è una domanda assolutamente in crescita. Benissimo. È un trend che non si ferma qua. Marco, un ultimo messaggio ai nostri risparmiatori, ovviamente maleducati per modo di dire, giochiamo sempre sul fatto del tema dell'educazione finanziaria, insomma impegniamoci un po' di più per chi da domattina volesse cominciare a fare il bravo e studiare, oltre a leggere il tuo libro? Cercare di capire, di orientarsi, perché l'educazione è un modo di essere che fa bene non solo a se stessi ma anche agli altri. Vuol dire mettere in circolo dei messaggi positivi ed essere propositivi e consapevoli di quello che si fa. Benissimo. Se avete delle dubbi, chiamateci, scriveteci. Assolutamente, lo fanno già tanto. Grazie a Marco Loconte, risparmiatore maleducato, Alessandra Viscovi con il suo libro sulla finanza, l'etica, la finanza sostenibile. Noi dal Salone del Risparmio torniamo domani. A tutti, buona giornata.